piano. Di Enrico Ruggeri. Il 2 febbraio 2015 è iniziata la grande avventura del Falco il Gabbiano, e la prima storia che abbiamo raccontato aveva come protagonista Alfonsina Strada. Molti di voi spero si ricorderanno, era una donna che aveva inseguito la sua passione per il ciclismo sfidando i pregiudizi ovviamente enormi in quegli anni, aveva addirittura partecipato al Giro d'Italia. Bene, oggi grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore Enrico da Roma raccontiamo un'altra storia di rivincita, diciamo di pari opportunità. È la storia di una donna nata con la passione dei motori e delle corse, che è riuscita a gareggiare e a vincere sfatando il famoso detto donne al volante, pericolo costante, e poi comunque doveva correre in macchina e non doveva parcheggiare. Vedremo che con lei c'era soprattutto da stare attenti agli specchietti, perché la sua auto spesso raggiungeva, superava i suoi avversari. Stiamo per raccontarvi la storia di Ada Pace. Siamo negli anni 20, Torino è una città aristocratica e la Fiat, che è nata a Torino nel 1899, si sta affermando come una delle più importanti case automobilistiche d'Europa. La Fiat 509, per esempio, l'auto che ha fatto dire al divino Vate D'Annunzio l'automobile è donna, anche se poi in realtà vedere donne al volante in quel momento è ancora una cosa piuttosto rara. Bene, il signor Pace ha un'officina meccanica e nel febbraio del 24 nasce una bambina di nome Ada, e lei comincia a girare nell'officina del padre, partecipa a gite domenicali in macchina con i genitori. Insomma, in lei, senza che nessuno possa capirne la portata, nasce una passione che l'accompagnerà tutta la vita. Non è nata, c'è sempre stata. Più ancora che per l'automobilismo, per la meccanica. Mio padre aveva un'officina ed era lui stesso appassionato di motori. Uno dei miei primi ricordi di bambina è legato a una gita di famiglia su una motocicletta Indian con il sidecar. Una gita che finì in maniera tragicomica, con una zia rimasta a terra a cavalcioni del seggiolino, staccatosi per chissà quale motivo. Ada Pace è appassionata di meccanica, è una caratteristica che appartiene ai grandi pionieri dell'automobilismo, a cominciare da Enzo Ferrari. E Ada, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, lei ha poco più di 20 anni, comincia a dilettarsi con la moto del momento, la Vespa, che Enrico Piaggio aveva iniziato nel 1946 a produrre. Era appena finita la guerra e mi ero iscritta al Vespa Club di Torino. Si andava spesso in gita, si aveva voglia di ridere, di divertirsi, e furono proprio i patrocinatori di quel club a spingermi per primi sulla strada delle corse. Questi contributi che abbiamo preso da un'intervista realizzata da Donatella Biffignandi per la rivista Ruote Classiche ci descrivono una ragazza solare, sorridente, con il tipico fisico delle ragazze dell'epoca, che magari dovevano essere un po' in carne, forse per reazione alla fame, agli stenti patiti durante la guerra. E in sella alla sua Vespa, Ada Pace partecipa a alcune gare, però siccome ha trascorso la maggior parte del suo tempo nell'officina del padre, in realtà lei comincia a sentire forte il richiamo delle quattro ruote. Il 12 aprile del 51, alla linea di partenza della Torino-Sanremo, c'è Ada Pace a bordo di una Fiat 1506C. Gli altri piloti non la degnano neanche di uno sguardo, e nessuno può pensare che una donna possa essere competitiva a bordo di un'auto preparata per la corsa, però non hanno fatto i conti con lei. Lei vince questa gara contro tutti i pronostici, lasciando nello sconcerto la direzione di gara, che non ha previsto una simile eventualità, quindi non sa come accogliere una vincitrice donna sul palco della premiazione. Lei ha 27 anni, è sconveniente lasciare una giovane donna sola in mezzo a una bolgia di corridori, di meccanici, di giornalisti uomini, e così si arriva a un compromesso. Lei sale sul palco accompagnata dalla madre e ritira il premio tra lo sbigottimento generale. Poi torna con la sua Vespa nelle gare del trofeo nazionale Gincana, che è un primo abbozzo, diciamo, di gare competitive in cui chiunque avesse una moto poteva iscriversi e partecipare. Lei vince 3 edizioni nella categoria femminile: 53, 54, 56. A Torino intanto ci sono 19 giovani della borghesia torinese che hanno la passione delle automobili e di tutto quello che ruota attorno alla macchina. Hanno dato vita a un circolo che si riunisce in una elegante sede di Corso Vittorio Emanuele, il Racing Club 19. È un club all'inglese dove gli appassionati di motori si incontrano per chiacchierare, per vedere i filmati delle corse, per giocare a carte, sorseggiando un drink con degli impettiti camerieri che li servono. E il club è aperto a tutti. In poco tempo il numero dei soci passa da 19 a 150, diventa un punto di incontro esclusivo dell'elite torinese, e tra i soci entra anche lei, Ada Pace. Il falco e il gabbiano. Se vi dico dei nomi come Marino Brandoli e Gino Valenzano, probabilmente voi rimarrete indifferenti, però comincio a alzare il tiro e vi dico Nuccio Bertone e Gianni Lancia. E se poi aggiungo Alberto Ascari e Umberto Agnelli, capirete che parliamo di piloti, di appassionati del mondo dei motori e delle corse che hanno una cosa in comune: l'appartenenza al mitico club Racing 19 di Torino. È un club che raccoglie l'elite torinese dei costruttori, dei carrozzieri, degli appassionati, persone che condividono la loro passione e, incontrandosi in questa prestigiosa sede di Torino, il mondo dei motori degli anni 50 e 60 è quello che solo in casi rari sfiora la Formula 1. Ma è però che non per questo è meno appassionante e meno pericoloso. E in questa elite entra anche Ada Pace, che nel mondo dei motori c'è nata, adesso è diventata adulta e sta avvicinandosi con autorevolezza al mondo delle corse. Il mio esordio automobilistico avvenne su una Moretti nel 1953, al circuito di Piazza d'Armi di Torino, sotto un diluvio che ricordo ancora adesso. Ma riuscii ad arrivare. Andavo fortissimo sul bagnato e non avevo certo paura della velocità. Beh, non sono macchine facili da guidare, non c'è il servosterzo, per esempio, ma Ada è una donna dal fisico robusto, riesce a superare il limite imposto, diciamo, dalla natura. E poi per correre ci vuole anche una predisposizione mentale particolare, un desiderio che permette di superare la paura, è una competitività che ti consente di essere magari anche irriverenti verso gli avversari. Ada Pace è una che al volante si fa rispettare e che va molto forte. Ho avuto la fortuna di avere il fisico adatto alle corse, ma in certe occasioni il fisico non bastava. Bisognava anche usare il cervello e portare la macchina al limite. Io, per esempio, curvavo quasi sempre in derapage. Era una tecnica che avevo acquisito istintivamente. Nessuno me l'aveva insegnata. Nell'agosto del 53 a Enna si svolge il Giro della Cravatta, una gara motoristica che si snoda tra le vie della città e che, così come la mitica Targa Florio, raccoglie un folto gruppo di appassionati. Bene, Ada Pace si classifica nona, anche se divide la guida della sua Abarth con un altro pilota che si chiama Michele Tornatore. Ma questa è solo la prima di una serie di gare a cui lei partecipa e si fa conoscere nell'ambiente. È una persona solare, lei è genuina, nelle foto sfoggia sempre un sorriso, però in realtà lei è una tosta, cioè un osso duro con la quale spesso non è facile andare d'accordo, ha una grande forza di carattere. Nel 57 c'è l'ultima edizione del rally femminile Perla di Sanremo e Ada Pace conquista un'altra vittoria. Insomma, nella sua categoria lei non ha rivali e quindi vuole cimentarsi in gare con gli altri piloti, cioè con i migliori, con quelli di sesso maschile. Così nel 58 Ada Pace abbandona il mondo della Vespa, si dedica solo alle corse su quattro ruote. Arrivano i risultati. Corre a Vallelunga, a Monza, partecipa alla Mille Miglia, Che è una corsa di oltre 1500 km, la 1000 miglia. Poi c'è la Targa Florio, che è una gara massacrante dal punto di vista fisico, perché si svolge su strade sterrate in mezzo alla gente, in mezzo agli animali, che rappresentano un pericolo. Insomma, le strade della Sicilia degli anni 50, che non sono delle superstrade. Ma proprio lì, nella Targa Florio, Ada Pace diventa l'unica donna in grado di distinguersi per i piazzamenti che ottiene regolarmente. Nella mia carriera ho corso con molte macchine, molto diverse tra loro. La Giulietta Bertone, la Zagato, una Lotus, una Ferrari 250 GT, la Moretti, la Stanguellini, la De Santis. Ma fra tutte, quella che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata la Osca 1100. Una macchina fantastica, rigida ma con un motore formidabile, che resisteva alle gare massacranti come la 1000 miglia e la Targa Florio. E arrivano le prime vittorie, la Trieste Opicina, la Ponte Decimo Giovi, la Messina Colle San Rizzo, poi altre gare che lei magari vince solo partecipando alla categoria femminile, e nelle gare maschili manca ancora la grande affermazione, quella che lei vuole fortemente e quella che i suoi colleghi maschi francamente si augurano possa non arrivare mai, perché per loro sarebbe un'umiliazione essere battuti da una donna. E stiamo parlando ancora, insomma, di anni in cui le donne vengono ritenute incapaci a guidare, devono stare a casa, occuparsi dei figli, lavorare a maglia, insomma, queste cose qua, no? Ebbene, lei non ha figli. Durante le gare indossa una calottina di pelle e un paio d'occhiali per proteggersi il viso, e si comporta da uomo, non ha nessuna intenzione di stare a casa. Lei vuole sporcarsi di olio e sgommare sulle strade sterrate. Sta per arrivare il suo grande colpo d'ala. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ada Pace, una donna che ha inseguito la sua passione per i motori, per le corse, e che ha gareggiato non solo sulle piste ma anche contro i pregiudizi in un'Italia del boom economico, quella degli anni 50-60, che però non era ancora pronta, diciamo, a dare spazio alle donne in certi settori dominati dagli uomini. E la sua passione per i motori l'ha portata a vincere molto nelle gare dell'epoca, nella categoria femminile, ma adesso lei vuole fare il grande salto, affermarsi nelle gare maschili, perché sa di essere in grado di battere chiunque. E se si osservano le foto scattate in quegli anni, le rarissime donne pilota in genere hanno un'espressione seria, tesa, impacciata, tipica di qualcuno che si sente fuori posto. Non lei. Lei sorride, dà l'impressione di divertirsi un sacco, è solare. Siamo nel 60, lei è molto conosciuta nel mondo dei motori, è in copertina su riviste come Auto Italiana, posa elegante nella sua pelliccia accanto a un motore. È una tenuta ben diversa da quella che indossa nelle gare, dove è nascosta dai guanti, dagli occhialoni, dal caschetto di pelle. Gli avversari cominciano a temerla e spesso non ci stanno a perdere contro di lei. Così al trofeo di Lumezzane lei arriva al traguardo davanti a tutti, i suoi avversari presentano un reclamo ufficiale perché l'accusano di aver barato. Dissero che avevo modificato la composizione della benzina. All'ennesimo reclamo contro di me, che avevo vinto nella mia categoria, Renzo Castagneto, il commissario di gara, decise di sottoporre a controllo anche il secondo e il terzo arrivati. Il risultato fu che io venni dichiarata regolare e furono invece squalificati gli altri due. Le gare a cui lei partecipano sono molto diverse. Non c'è un campionato regolare con le auto che sono sempre le stesse. Ogni manifestazione ha le sue regole. Così ci sono gare di velocità, di regolarità, rally, gare in salita. È difficile stabilire quale sia stata la svolta della carriera di Ada Pace, perché lei ha corso in molte categorie diverse. Ma c'è una gara che lei non dimentica, non tanto per il risultato, ma per quello che accadde dopo. Siamo a Modena, 1960, Coppa d'Oro ACI. Lei ormai è considerata una testa di serie, sono in molti a temerla. Lei ha un carattere forte, non ha paura di nessuno, sulla sua auto ha messo una targa speciale. C'è scritto Sayonara, il saluto giapponese. L'ha scritto per sbeffeggiare gli avversari quando li sorpassa e se ne va. E da quel momento tutti la chiameranno così, Miss Sayonara. E in quella gara con la sua Oscar S1100 vince. Alla premiazione Umberto Bini e Danilo Tesini, cioè il secondo e il terzo classificato, non si presentano. Ero felice per la vittoria, ma quando mi presentai sul podio, venni a sapere che il secondo e il terzo classificato non volevano salire sul palco con me. Erano troppo arrabbiati per il fatto di essere stati battuti da una donna. Così andai sul palco da sola. Insomma, Ada Pace ha vinto la sua sfida con i pregiudizi contro chi non la considerava all'altezza di gareggiare contro gli uomini. Miss Sayonara sorpassa tutti e se ne va, vince la sua prima gara ufficiale di una competizione nella quale le donne sono ammesse, una competizione mista. In carriera vincerà 11 titoli italiani femminili, poi ci saranno altre e vittorie come Vallelunga nel 62, poi la Targa Florio, la Mille Miglia, il Nürburgring, Zolder, gare a cui lei partecipa sempre ottenendo buoni piazzamenti. È una donna che non ha paura di rischiare, che non si tira indietro se c'è da premere sull'acceleratore. Per me sono state tutte vittorie bellissime, perché ogni volta ero sola contro tutti. Ogni volta vincendo dimostravo qualcosa di più. E mi divertivo anche, facevo cose pazze. Ero capace di correre nella stessa gara con più macchine in diverse categorie. Talvolta provavo il percorso di notte perché non avevo avuto il tempo di partecipare alle prove, magari perché impegnata in un'altra gara. Fu quello che mi successe, per esempio, nel 1959. Partecipai al Gran Premio della Lotteria di Monza e il giorno dopo, senza aver quasi provato il percorso, mi allineavo alla partenza della Veglio Mosso, dove riuscii anche a vincere. Erano tempi meravigliosi. Erano dei tempi ancora pionieristici. Chi guidava doveva essere anche un bravo meccanico, pronto a mettere le mani nel cofano per rimediare a un guasto. Però Ada era cresciuta nell'officina del padre, è una che avrebbe potuto smontare e rimontare a occhi chiusi un motore. Così, per dire, accade qualcosa nella 1100 km del Nürburgring, quando la sua Flaminia Coupé comincia a rallentare. Era una macchina pesante, difficile da guidare. Mi ricordo che a un certo punto si ruppe il filo dell'acceleratore all'altezza del pedale. Non ebbi altra alternativa che sfilare il filo del cofano, farlo entrare dal finestrino e guidare così. Arrivai ai box con i guanti tagliati e le mani sanguinanti, a furia di tirare. Ma arrivai. È una scena alla Nuvolari, non stiamo parlando di auto come quelle moderne, iper tecnologiche, con geni elettronici che prevengono i rischi. Quando si corre lì per le strade cittadine, nelle strade di campagna, basta un palo, basta un paracarro per mettere a rischio la vita. Al rally internazionale del Sestriere, per esempio, Ada Pace sta dominando la gara. Dopo tre giorni di corsa, manca poco all'arrivo, una catena montata per guidare sulla neve si rompe, l'auto va a sbattere contro un paracarro coperto di neve. La gara è finita, grande delusione. Sono, insomma, cose che possono capitare anche a un pilota preciso come lei. Studiavo sempre con molta attenzione il percorso. Analizzavo le curve, gli allunghi, i rapporti necessari. Occorreva essere molto meticolosi. Avevo preso l'abitudine di cronometrarmi da sola durante le prove, nei tratti più difficili o più importanti. Nel 64, al Rally dei Fiori a Sanremo, ancora un incidente. La sua macchina va a sbattere contro un camion. Ancora una volta lei esce miracolosamente illesa, però è tempo di cambiare vita, di fare altro. Così Miss Sayonara saluta il pubblico per l'ultima volta e si ritira dalle corse. E noi, per rivivere dei ricordi del mondo delle corse di quegli anni mitici, abbiamo al telefono un mito. Ha corso in tutte le discipline, è arrivato alla Formula 1, però è anche una persona spregiudicata e senza peli sulla lingua. Abbiamo al telefono lui, Arturo Merzario. Buongiorno Arturo. Buongiorno Enrico, buongiorno, che piacere. mi sembra che l'introduzione tu abbia esagerato un po'. No. Io ho qualche anno meno di te, non tanti meno. Insomma, da bambino mi ricordo che Merzario. Però intanto era... noi ci siamo arrivati, ecco, perché questo. Quando uno mi dice, sai, delle persone, dico, ah, ma però guarda quello lì come è diventato vecchio, ma è meglio invecchiare che morire. È la migliore delle due ipotesi, sì. Senti, tu hai iniziato a correre agli inizi degli anni 60, esatto. E noi stiamo raccontando la storia di una storia strana, una storia di una donna che in qualche modo teneva testa agli uomini. Tu che ricordi hai di Ada Pace? Caspita, ma lei era già un'icona, perché allora io iniziai a correre nel 1962 e già io mi ricordo a Monza, quando io debuttai a Monza, c'era questa signorina, sì. Ada Pace, che già correva con la Giulietta S-Zeta. Sì. Io avevo buttato una Giulietta Spider Veloce, ma lei già faceva competizione contro nomi che poi hanno fatto storia dell'automobilismo. E proprio in quell'occasione mi ricordo che ebbe un incidente, si toccarono non so chi, con come, perché per quando, al curvone, famoso curvone, sì. Di Monza, dove si arrivava al massimo della velocità, e lì venne fuori un bel disastro dove la Ada Pace ne uscì quasi illesa, e da parte nostra tutti hanno subito detto e effettivamente si è salvata per le tette, gli airbag naturali, ma allora non c'erano gli airbag posticci, ma c'erano quelli naturali, e certo. Lei era una fortunata e aveva uno di questi, perché lei poi correva con il Carluccio Facetti, perché la sua macchina veniva preparata nelle officine del papà Facetti, sì, il papà di Carlo, di Giuliano, di Rosadele, ecco. Poi dopo ebbero, ti potrei dare una piccola chicca tra virgolette, ebbero un piccolo alterco perché pare che l'Ada abbia fatto vedere la preparazione della sua macchina, sì. Al Correro di Torino, che era l'antagonista del Facetti, per cui lì si ruppe la bicicletta, sì, come sì, tutte le cose, certo. Poi dopo, sai, il tempo e la miglior medicina, si è ripristinato tutto, ecco. Senti Arturo, ma quel mondo lì era un mondo diverso. Intanto, appunto, uno iniziava, correva con la sua macchina, cioè non era la voglia di essere una superstar come è oggi, no, era la passione per passione la velocità, pura. Passione pura, follia anche. Al di là della velocità, del poter e dimostrare a se stessi di riuscire a fare un qualcosa che andava al di là del lecito con l'illecito. Non so se riesco a farmi capire. Certamente. Tanto è vero che io ho sempre sostenuto che il più onesto era un bandito, ma nel senso buono della parola, certo. Dove tutto era consentito, ma sempre nel lecito della serietà e del rispetto dell'avversario. No, e poi non... c'erano grandi personaggi, cioè, in quell'automobilismo tu, allora, tu dicevi ha vinto Jim Clark, ha vinto Brabham, certo, oggi vinto dici ha vinto la Ferrari, la McLaren, vedi ti sei già fatto domande e risposta da solo. Infatti, senti Arturo, l'ultima domanda che ti faccio è, secondo te tornerà mai un automobilismo intanto più divertente, perché oggi le corse di Formula 1 non sono inguardabili. Ti stronco subito, impossibile. Sai perché? Perché purtroppo il mondo è andato avanti, ha fatto passi di gigante e sono arrivati gli interessi economici di marketing, politici, certo. Nell'automobilismo, come in tutti anche gli altri sport, purtroppo è entrata la politica, gli interessi politici, e la fa da padrone, per cui si potrà mai purtroppo tornare alla mia epoca. Io sono stato un fortunato che ho proprio terminato l'epoca dove ti sei divertito, c'era ancora l'uomo, ti sei divertito tanto, le però. Capacità erano dell'uomo. Arturo, grazie infinite, grazie te, complimenti, Enrico, ancora per la grazie. Tua carriera e per la tua simpatia. Ciao grazie Arturo. Ancora ciao Henry, ciao. E dopo il ritiro Ada Pace ha vissuto una vita riservata, ha lasciato quel mondo delle corse nel quale aveva raccolto le sue più grandi soddisfazioni, qualche partecipazione a gare storiche dove Miss Sayonara ha potuto incontrare di nuovo i suoi vecchi amici e anche qualche nemico, qualcuno che aveva dovuto leggere la sua targa e mangiare la sua polvere. Ada Pace è morta il 15 novembre 2016 nella sua Rivoli a 92 anni, come dice Arturo Merzario. Per sua fortuna è riuscita a passare una vita a raccontare gli episodi dei bei tempi delle gare. E in una sua scatola ha conservato fotografie, ritagli di giornali di una vita avventurosa trascorsa alla guida di auto che lei spingeva sempre al massimo, ma sempre con un sorriso. E i colpi d'ala di questa trasmissione sono tanti, a volte sono anche colpi d'ala contro il pregiudizio, rivincite personali che hanno dato coraggio ad altre persone che sono arrivate dopo. È il caso di Ada Pace, Miss Sayonara. Se voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, interagite con me sul sito di Radio 24, sul nostro Facebook, Twitter, sui miei social, insomma, se volete lo sapete, mi trovate. A domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.